Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 8 maggio 2015. Africa, il packaging a nanostrati allunga la durata degli alimenti anche all'equatore. I passi da compiere sono ancora molti, ma i primi risultati fanno ben sperare. In alcuni paesi africani dell'area equatoriale si comincia ad assistere alle prime fruttuose applicazioni su larga scala dei packaging intelligenti basati sulle nanotecnologie che permettono di garantire freschezza a molti alimenti anche alle alte temperature. Questa tecnologia si sta rivelando una risorsa utile per una maggiore efficienza distributiva degli alimenti e alcuni paesi stanno realizzando con l'aiuto europeo i primi centri per lo studio dell'imballaggio a nanostrati. Fin qui la notizia dell'8 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. Oggi a Milano apre i Battenti Plast, salone internazionale delle materie plastiche e della gomma, che vedrà domani un importante convegno sulla ricerca italiana sugli imballaggi attivi, con particolare focus sui nanomateriali. Maurizio Galimberti, docente al Politecnico di Milano, coordina il convegno organizzato dall'Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia delle Macromolecole. Io voglio assolutamente proteggere il mio alimento che sta all'interno dell'imballaggio dall'ossigeno, da qualsiasi agente atmosferico che ne possa provocare la prematura maturazione e o il marcimento, oppure voglio prevenire il contatto con agenti, come dire, microbici e tutti gli agenti che possiamo immaginare possano avere un effetto nocivo. Allora, questo viene realizzato con tecnologie che portano sul materiale da imballaggio, portano degli strati che sono degli ossidi inorganici, ossidi di silicio, ossidi di alluminio, oppure con degli strati che sono di carbone amorfo. Questi nanostrati poi realizzano questo effetto barriere, oppure oggigiorno si utilizzano queste sostanze inorganiche, sono dei silicati inorganici che sono disponibili sulla faccia della Terra da sempre, però l'uomo ha imparato a distribuirli bene nei materiali che fungono poi da imballo. Allora, distribuendoli positivamente, omogeneamente in questo imballaggio, questi realizzano l'effetto barriera di cui parlavo prima, e quindi questo allunga tanto la cosiddetta shelf life del mio alimento e quindi consente di avere degli alimenti freschi non solo e non tanto negli ambienti magari che a noi sono più usuali, ma soprattutto consente di avere alimenti freschi in ambienti magari più estremi, quindi uno deve pensare alle alte temperature, quindi in condizioni più aggressive, tipiche di popolazioni e di zone del mondo dove ci sono problemi proprio relativi all'alimentazione. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.